Dentro di te, ninna, e ninna nanna. Così il lupo cattivo è andato già in castigo e la strega è morta, e tutta la tua rabbia si è dissolta in una lacrima persa. E perso non sai quanto io mi sento quando rodo il tuo sguardo, e ti guardo anche adesso che hai pianto. Ma le cose belle non sono tristi mai. Ninna nanna, questo ancora forse non lo sai. Forse non lo sai perché non te l'ho detto mai. Perché a dirti ti amo mi vergognerei. Forse non lo sai perché non te l'ho detto mai. Perché a dirti ti amo, dirti che ti amo mi vergognerei. Ninna nanna, ninna, ninna. Difendere anche da me, ninna, anche dal mostro che in me, ninna, e ninna nanna. Forse non lo sai che un giorno salirò sul tetto del mondo e lascerò che se lo prenda al vento il peso del tuo tormento. Allargherò le braccia urlando che tu mi piaci tanto, ma tanto anche adesso che hai pianto. Ma le cose belle non son tristi mai. Ninna nanna, questo ancora forse non lo sai. E forse non lo sai perché non te l'ho detto mai. Perché a dirti t'amo mi vergognerei. E forse non lo sai perché non te l'ho detto mai. Perché a dirti t'amo, dirti che ti amo mi vergognerei. Ninna nanna per te.